pomeriggio Maria. Ma infatti, cosa succede? Sono scellerati, io non so, non riesco a capire perché. Dovrebbe andare piano, c'è qualcuno in un punto del genere, ragazzi, che già c'è un segnale anche sul terreno e poi c'è anche il segnale anche sulla sua destra, niente, però non si fermano. E poi molte persone, anche anziani, lì nelle cose del supermercato, la maggior parte, gente dei paesi, magari persone che a Sassari vengono a morte di pappa e non sanno ancora come comportarsi su quelle rotonde, capito? E bisogna stare attenti, tu devi stare attento, non loro, capito? Perché loro pezzo tranquillo e non si immaginano che lì c'hanno da dare la precedenza, boh. Infatti non è possibile, poi la gente che si sposta da una corsia all'altra senza guardare il specchietto, senza togliere freccia, ma quando mai uno prima di togliersi dalla fila delle macchine per immettersi nell'altra corsia di sorpasso non deve innanzitutto guardare lo specchietto se sta davanti qualcuno, segnalare con la freccia che ti stai spostando, niente, si spostano improvvisamente, arrivano quelli o in moto o in macchina, si sbattono, non è possibile, guarda, questo è come è successo un annetto fa a mio nipote, e per questo si sposta a ottava improvvisamente dalla corsia, è lui che stava sorpassando con la moto, fortunatamente non stava andando molto forte, comunque si è fatto male lo stesso ed è stato dei mesi in ospedale, per dirti no, ma non è possibile, ragazzi, che la gente debba guidare in questa maniera, ragazzi. Ci vuole la pistola, ci vuole in testa questa gente, guarda, per eliminarla, avanti già. Sì, anche loro hanno un'arma in mano, perché la macchina la usano come un'arma, ma se ne dà niente. E più di una volta è successo anche a me, Giulio, la stessa cosa. In corsia di sorpasso, anche sia con la macchina che con la moto, il tipo esce senza guardare e te lo trovi a fianco. Se non ti sposti tu ti si sbatte. Sì, ma è così, guarda, io adesso scendo tutte le volte qui, io per entrare in via di Punti, qui al semaforo di Punti, per andare a casa mi devo mettere sulla sinistra perché quella è la strada che mi porta a casa, sì, mi porta a casa anche l'altra strada andando dritto, ma per me è più conveniente quella, è più breve la strada e tutto, no? Beh, tu vedi certe persone che improvvisamente si spostano dalla corsia di destra e si mettono nella corsia di sorpasso, per poi rientrare di nuovo sulla destra, perché? Perché il semaforo per la colonna dritta, per verso Porto Torres, lì scatta prima. Ma io non lo so la mentalità della gente, che cosa ha in testa non lo so, ma che cosa hai guadagnato se hai guadagnato una posizione, che ti sei messo davanti a una macchina e magari tu eri solamente dietro a una macchina di distanza? Io non riesco a concepire questo sistema di guida di certa gente, è incredibile. Riprendi Giomari. Poi vedi sui punti che la polizia ci vuole, non ci sono mai, adesso lì qua sulla Buttibusi, no, ma ne escono, ne salgono e ne scendono sparati, che è una cosa incredibile con quella moto, guarda, dei diavoli, ma come mai non si rendono conto che chi lascia un animale o una persona, guarda, e ti becca in pieno e perdi subito il controllo e ti ammazza, per carità, guarda. Per loro, comunque io sono attento agli altri, per essere più tranquillo, già vado piano e sono attento agli altri per essere più tranquillo, però certe volte nemmeno te li immagini, te le piombano sopra e sono guai per tutti e due dopo. Ok, giù, devo chiedere che c'è gente. Buon proseguimento, buon pranzo, buona domenica in famiglia, ciao già, altrettanto, buon proseguimento, riprendi già. Ciao Giovanni, dai, buon correttivo, proseguimento anche a te, e buona carica quando la fai, dai. Giulio, a te il Michelino. Ok, ciao Giovanni, ciao, grazie per essere entrato, almeno ci siamo sentiti per un attimo. Sì, ma è così, già, guarda, è una vergogna, è veramente una vergogna. È il caso di dire che il pericolo viene sempre dagli altri, difficilmente viene da te stesso, ma molto difficile, perché da te stesso può venire il pericolo in caso di un malone improvviso, ma generalmente il pericolo viene sempre dagli altri, ecco perché bisogna stare molto ma molto attenti a come si comportano gli altri su strada, perché è impressionante, guarda, le infrazioni azioni che fanno certe persone. Io ho sempre detto, bisognerebbe, ragazzi, da rifare tutti quanti la scuola, dare gli esami per la patente, tutti quanti, perché c'è tanta gente che ancora non conosce nemmeno la segnaletica, parlando di strisce e di corsie, parlando di addirittura di semaforo, lo vedi che è giallo, ti devi fermare, no, continuano sino all'ultimo istante, proprio quando sei sotto che gli è scattato il rosso, ma non è possibile, ragazzi. È giallo, è già un preavviso che ti devi fermare, niente da fare, passa a velocità altissima, quello parte perché sta per scattare, o meglio scattato nel frattempo, il semaforo è le colpate a tracchi, nulla, no, non ce n'è, sembra che gli si stia bruciando grazie da qualcosa sotto i piedi a certa gente, non è possibile già. Io per un'invenienza, anche se c'è la precedenza, mi fermo sempre, rallento, controllo bene che mi vogliano dare la precedenza, sennò più di uno ti si sbatte, perché c'è molta gente che non rispetta i segnali, ma il fatto di ridare l'esame, che cos'è? Danno magari, studiano, danno bene l'esame e poi fanno di nuovo quello che vogliono, sino a futili, molti ragazzi se ne fregano, camminano come pazzi, li ho visti io come pazzi in macchina, sgommano, fanno, in partenza ci lasciano sia copertura che frizione ogni volta, e ne ho visto certi, guarda, che uno ha fatto due cambi di marcia, due sgommate, e c'erano i carabinieri, non se ne era accorto, l'hanno subito bloccato lì, uscendo dal semaforo che c'era vicino alla griglia, loro erano fermi più avanti. Erano in bicicletta, capito? Quello, guida pericolosa, non era per nessuno. E infatti, ma c'è l'altra volta un deficiente, caspita, cosa ha fatto? Lì salendo in viale Porto Torres, no? Un po' prima lì del bricolio, a un certo momento questo deficiente dal finestrino e butta la bottiglia vuota della birra, ragazzi, e c'ero io dietro, c'ero, no? E dietro di me c'era la pattuglia della polizia, che eravamo tutti in colonna, no? Eravamo così. La polizia se ne è accorta di quello che ha combinato questo tipo, subito accende la sirena, lo sorpassa e gli si mette davanti e l'ha bloccato, così che ti puoi immaginare, sicuramente gli ha fatto la contravvenzione, però non è il guidatore che ha buttato la bottiglia, era quello che gli stava accanto, il passeggero. Ma dimmi tu se uno può buttare una bottiglia dal finestrino della macchina, ragazzi, con il rischio di spaccare qualche vetro di un'altra macchina, oppure se c'è uno in moto lo prende in faccia ed ammazza, così non è possibile, già, guarda, le cose che combina la gente. Poi giù. La discesa di San Gavrino, no, ce l'ha presente che vanno tutti a piedi di notte, eccetera, eccetera. Noi come ci sono, quando io ero lì, facevamo ogni anno il servizio per proteggere queste persone, perché non era autorizzata come discesa, quindi non partecipava né carabinieri, né polizia, né nessuno. Poi la cosa è stata diversa, negli ultimi anni hanno cominciato a scendere anche la strada, le carabinieri, eccetera, eccetera. Beh, fatto sta che un anno eravamo lì vicino a Ottava, c'erano i pellegrini che stavano scendendo, noi eravamo a fianco con l'ambulanza, e io ci avevo Land Rover, quello che fa antincendio, perché li usiamo tutti i mesi con Land Rover, facevamo la scuola, scendevamo sino a giù, poi ritornavamo indietro per vedere se tutti i pellegrini erano già scesi, avvisavamo via radio, capito? Beh, fatto sta che mentre stavo scendendo, questo qui passa con la macchina, butta la bottiglia, ha preso in testa una signora. Caggio bisiguido, ha attaccato le sirene, l'ho perseguitato, l'ho bloccato e gli ho chiamato i carabinieri. Hai fatto bene, bisognava prendere un'altra bottiglia e spaccargliela in testa a quel deficiente lì, non è possibile. E ieri mattina, ad esempio, lì a Ponte Rosello, no, qui a Sassari, stanno ripristinando la pavimentazione perché erano saltati a alcune pietre adesso se tu vedi lì c'è, insomma, il transenne, dunque è diventata una corsia praticamente, non dico unica, ma quasi, perché di solito al ponte sono tre le corsie, se vogliamo, no? Perché due che vanno verso il mercato e l'altra che invece va verso il Monte Rosello, no? Beh, questo è deficiente, adesso lo vedi che una corsia è impegnata da quanto è lungo il ponte, da tutte le transenne. Questo si è messo a sorpassare, questo è deficiente. A un certo momento stavano arrivando le altre macchine di fronte, perché? Perché le corsie erano diventate dure, ma tu non ti puoi permettere di sorpassare lì, perché? Perché quando ci arriva la macchina di fronte, come fai a rientrare poi? Niente da fare. Beh, si è dovuta fermare la corsia che era in regola, si è dovuta fermare per far rientrare questo disgraziato, ragazzi, è una cosa incredibile. E secondo lui aveva anche ragione, perché c'è stato un attimo che si sono bloccati per farlo rientrare, no? E ha protestato questo deficiente. Secondo lui aveva ragione già, ma è una cosa, guarda, c'è da prendere certa gente e ammazzarla, perché meritano quello e basta. I voti sono prepotenti, giù, non conviene manco attaccarti con certa gente, vai a fare la bisciola e ti chiudi nella bisciola e ti ammazza. Secondo chi trovi, non ti conviene manco attaccarti in queste cose qua. Io lascio sempre perdere adesso, prima mi attaccavo perché certe cose mi hanno sempre dato fastidio, adesso non mi attacco più perché lei siete tutti i colori al telegiornale. Tolgo la pistola, ti sparano, per una cazzata ci perdi la vita, capito? Sì, ma quello sì, lo so, indubbiamente, per certe cose non ne vale la pena, diciamo così, besticiare, eccetera, per carità, anche perché questi sono sempre delinquenti, quelli che fanno queste azioni qua sono sicuramente dei delinquenti, delle persone che hanno l'abitudine di vivere di prepotenza, senza pensare che nella vita non ci sono solo loro, ci sono anche gli altri che hanno gli stessi diritti e magari anche di più, perché questi vivono così da prepotenti e basta. No, no, non è possibile, guarda già, non è possibile, è una vergogna, veramente. Purtroppo è così, questo che fretta aveva pure questo deficiente. E se no non mi danno fastidio quelli che ne escono da un incrocio, da una cosa, sapendo che lì c'è il diritto di dare precedenza, mi interrompe a me la marcia che ho per dire, poi ti si mette davanti a questo punto, cammini a 10 km l'ora, magari io sto arrivando a 50 all'ora, per dire, no? Non è possibile già, ci sono certe infrazioni assurde, guarda, che fa la gente. Vabbè, lei cosa vuoi fare? Purtroppo questa gente qui non ha nulla da perdere, se combina guai non in affutti nulla, perché mai è stata anche dentro, quindi se combina guai non ne frega niente. Sì, ma è così, no? È gentaglia, per me, io, la persona che si comporta male in questa maniera, che non rispetta il prossimo, per me è gentaglia e basta, non c'è bisogno che vi senti nemmeno parlare, se basta il comportamento, anche guidando in macchina, io li considero gentaglia, non gente che fa errori, no, quella è gentaglia, perché gli errori le fanno le persone che non ragionano, e dunque la gente è molto povera di mente, secondo me. Oppure te ne escono dal parcheggio, marcia indietro e tu stai salendo, non vedi che prima di uscire di metterti in movimento, ma quando mai non devi controllare se stai salendo, se sta passando qualche altra macchina? No, ne esco all'improvviso così e tu magari se non sei attento ti sbatti dietro. No, guarda, sono milioni le infrazioni che si fanno tutti i giorni, ma di ogni specie già, è una cosa veramente impressionante. Meno male che io ci vado poco in macchina, Sassari, faccio da casa a falegnameria, metto lì la macchina, poi quando devo circolare a Sassari, solitamente, a meno che non devo caricare qualcosa, ma solitamente cammino sempre a piedi, però guarda, ce ne sono, oppure un passaggio pedonale, uno si ferma, arriva l'altro là dietro e sorpassa, e invece così, in maniera brutale, un pedone, cosa vuoi che ti dica, già, non, guarda, solo a pensarci e a parlarne di queste cose ti fa venire anche il malumore. Allora, io anni fa ero alla Croce Blu, proprio quando ero lì alla Croce Blu, in via Pascoli, dove c'è il bar, cioè per esempio ci sono i passaggi pedonali, lì una famiglia si è accorta che praticamente gli mancava l'acqua a casa e sono andati al bar a comprarla. Stavano andando perché al bar non ci sono arrivati. Una macchina si è fermata per farli passare, è arrivata un'altra sparata, ha colpito la macchina che c'era davanti, ferma, e gliela ha fatta investire alla macchina che c'era davanti, quindi la colpa è passata tutta a quello che gli ha investiti, capito? A quanto pare. Sì, perché a un certo momento poi la dinamica dell'incidente ti coinvolge, perché tu, capito, ma io non sono una montagna che rimango ferma quando la macchina da dietro si sbatte, io sono un mezzo di trasporto, se uno da dietro mi spinge è chiaro che poi faccio danno anche davanti, normale, no? Ma cosa vuoi che ti dica? Ma se l'altra volta, guarda, l'altro giorno, addirittura il vigile urbano è morto, la gente attraversando sul passaggio pedonale, e questo deficiente, salutando e ridendo qualche amico o amica che fosse, che ne so, senza rendersi conto che stava passando la gente nel passaggio pedonale. Poi improvvisamente il collega l'ho avvisato, perché stavano camminando fianco a fianco, stavano camminando tutti e due vigili con le moto, no? Il servizio non è che erano con la moto di servizio, se ne ha accorto all'ultimo momento e ha bloccato. Oh, scusa, ma scusa ancora, ma guarda, è meno male che sei vicino al baro, e l'altro collega non ha fatto altro che fare dei movimenti con la testa, come per dire, mia vai, dammi manco male che sei vicino al baro, buro. Non è possibile, guarda, già, non è possibile. Io i vigili urbani li ho trovati, alla Sabatati con Marco al parco, non mi nascondo a dirlo, siamo andati su al parco che c'è al monte per far giocare a Marco con i giochi che ci sono, a vedere quegli uccelli eccetera. Beh, c'erano due vigili urbani in moto, sono entrati dentro il giardino, si sono messi all'ombra, si sono seduti fumandosi la sigaretta, quello è il servizio che fa. Hanno capito, li ho anche fotografati, non li ho voluti male perché se no la fotografia avrebbe parlato chiaro, li ho fotografati giù. Infatti ci sarebbe proprio da fargli una ripresa cinematografica oppure una fotografia e poi mandare, prendere anche un giornale magari, cassita, in modo che ci sia la data del giorno eccetera, ma non è possibile, addirittura fotografare le moto anche dentro il giardino, perché loro le moto dentro il giardino non le possono portare nella maniera più assoluta, cassita, tu obblighi le persone a non portare nemmeno uno skateboard oppure che so io una bicicletta di un bambino e tu invece entri col mezzo meccanico del comune, ma non è possibile, Rassita, tu non ci devi entrare con la moto dentro il giardino, che tu rovini tutto quello che la gente ha pagato per costruirlo, perché la gente l'ha pagato quel giardino, non ti credi che il comune l'aveva regalato, l'ha pagato la gente, l'ha pagato quel giardino, e tutti noi, purtroppo è così, cioè, cosa ci vuoi fare, loro hanno la divisa e sembrano che abbiano chissà che cosa, quale importanza, e invece sono dei deficienti, i primi sono loro, oppure i vigili che si mettono con la macchina dove non possono sostare. Lo stesso discorso vale anche per i carabinieri, addirittura in curva l'altro giorno ho visto la macchina dei carabinieri parcheggiata in curva, ma quando mai, ragazzi? Una macchina è un tutore dell'ordine, deve fare queste infrazioni così, o sul marciapiede, se vedono uno di noi così è contravvenzione sicura, ma te le immagini? Aspetta giù, quello lì è diverso, perché se si tratta di un intervento urgente loro possono fermarsi dove capita, se è un intervento urgente, qualche cosa che devono fare urgentemente, possono fermarsi tranquillamente, però quelli erano belli a riposo, capito? Si è accesa la sigaretta, io sono stato guardando a Marco che giocava con lo scivolo e cose, sono stato più di mezz'ora e loro erano sempre lì, chiacchierando, hanno usato il cellulare. Alla fine, siccome avevo la macchina fotografica con uno zoom da 300, ho fatto finta di mettere in alto e poi tra ho fatto due fotografie a ripetizione e le ho presi bene proprio in pieno, mi zoomati bene fatti. No, non è vero che loro si possono fermare anche se c'è un'urgenza, nella maniera più assoluta, se si devono fermare per un'urgenza, devono fare segnalazione, devono fare, perché possono creare un incidente, possono creare, siccome si abusano del potere che hanno, che poi il potere proprio non ne hanno, se è loro che credono di averne, loro quando fanno una cosa del genere devono segnalarlo, almeno se non altro, non dico di mettere un cartello, ma almeno un altro poliziotto, siccome vanno sempre minimo in due, in coppia, deve fare segnalazione per rallentare un eventuale traffico che può creare dei problemi. Non è come stai dicendo tu che loro non possono fare. Loro non possono fare proprio niente di inflazione, perché non sono loro che hanno istituito la circolazione stradale. La circolazione stradale l'ha istituita la motorizzazione, non loro. Loro la devono far rispettare, casomai. Però sono i primi ad infrangerla. Giulio, lo so di sicuro, io con l'ambulanza una volta c'era una strada interrotta e c'era la polizia, mi ha fatto passare controsenso, capito, in una via, mi ha fatto passare tutta la via controsenso, mi hanno scortato loro, c'era un'urgenza e poi se c'è il tempo sempre di mettere una persona, se servono tutti e due per l'urgenza, ammetti che i due si stiano ammazzando, si stiano accoltellando, cosa fai, metti un poliziotto lì a aspettare che... No, quello lì no, cioè loro dovrebbero cercare di metterla in posizione che non disturbi, ma se non c'è parcheggio cosa fanno? Fanno il giro e aspettano che si ammazzino, no, non esiste. No, no, quello sì, giusto, bisogna, ci sono delle priorità nelle cose, se si tratta di una cosa urgente loro possono farlo, addirittura io ho visto i carabinieri che praticamente stavano scendendo verso Porto Torres alla fine vicino alla Grendi, lì hanno visto questa macchina, hanno attaccato le sirene e hanno fatto l'inversione dove non si può fare doppia linea continua eccetera eccetera e l'hanno bloccata, probabilmente da qualche macchina che avevano segnalato e che dovevano bloccare, l'hanno bloccati, li hanno fatti scendere, c'erano un negro, poi il giorno dopo ho saputo che era roba di droga, mi hanno smontato i pannelli, gli hanno trovato la droga nei pannelli. Tutte queste cose vanno bene, giusto che infatti sono pagati per quello, sono messi apposta per fare questi controlli, però loro se si fermano in curva dove crea un pericolo che la macchina non è visibile da altri che provengono, loro hanno la colpa in pieno, perché devono segnalare oppure devono fermarsi in un punto dove non crea un pericolo, perché non è giusto che per evitare un eventuale rissa o un qualsiasi di altra cosa che ne creino altri loro, ma anche non volendo, non direttamente dalla propria volontà, capito? Però devono essere sempre molto prudenti, invece non lo sanno. E poi sono fatto che un giorno ho trovato a casa, c'era un carabiniere con gli occhiali da sole, caspita, tutti passavano e se lo guardavano, a un certo momento sollevo la testa e c'era la buia affacciata al primo piano, questa è sotto casa mia dove abitavo io prima, mi ha fatto ridere, ma passa la gente, mi guarda e si mette a ridere, se l'ha guardato anche la moglie, per forza si mette a ridere, non vedi che ti manca una lente dagli occhiali da sole gli mancava una lente e lui non se ne era reso conto, ma te la rendi conto, la cretinaggia e l'imbecillaggia dei certi agenti. Allucinante, vabbè, se no sarebbero carabinieri. Cava. Comunque. Diciamo che quel tipo di servizio è particolare, loro possono passare anche contromano e cose del genere in urgenza, se c'è una cosa che per dire la strada viene abbreviata possono fare i vicoli eccetera eccetera, poi naturalmente devono avere la prudenza di non fare altri guai, ecco quello sì, è come noi con l'ambulanza, siamo in urgenza ma non è che perché siamo in urgenza possiamo ammazzare a tutti, dobbiamo rallentare agli incroci eccetera eccetera, devono, perché io non ci sono più. Certo, ma è capitato di aver visto per dire macchine della polizia entrare contro mano eccetera, contro senso, però c'è l'altro carabiniere di fianco che con la paletta che sta segnalando e con la sirena schianata, hai capito Gianni? Non è che può fare uno le cose così, deve farle, ma deve farle sempre in regola in modo da non creare problemi agli altri, e il discorso è questo, invece no, certa gente proprio di servizio non le sa fare nella maniera più assoluta e crea problemi, o meglio si prende il vantaggio di avere la divisa addosso e vogliono fare quello che le pare, capito? E succede, soprattutto quando si tratta di farsi vedere davanti a chissà chi. Già ce n'era uno di poliziotto in gamba che purtroppo è morto, non poliziotto, un vigile urbano, quello già era veramente un vigile, non guardava le facce nemmeno la madre, se per quello. Ma per dirti, no, ma ce ne sono certi, per carità. Oh, yeah. Sì, c'era Fiori a Polottore, che aveva messo la multa alla macchina della moglie, infatti Rugonta. Ha fatto bene, perché era giusto questo, tu mi dirai, ma ha fatto le parole lui, sì, è parlo lui, però sta dando l'insegnamento alla moglie che la macchina non la deve parcheggiare dove non si deve fare, così, cazzo, non è detto perché tu sei un agente che puoi fare quello che ti pare ti piace, no, nella maniera più assoluta, tu devi eseguire le regole di legge, le mettere in pratica, con chiunque, perché la legge è uguale per tutti, ma cosa avremo, tutti i cattivi Berlusconi avremo, che lui non vuole accettare condanne che gli hanno dato, non è possibile, guarda. Allora, visto via Sacchi, dove ci sono i cinesi adesso a Porottore, dove avevamo il negozio noi, te lo ricordi? Non lo so dove già. E vabbè, via Ettore Sacchi, adesso stai in Porottore, di fronte al rifornitore, visto che c'è quel negozio dei cinesi. Sì, quello l'avevo intravisto, sì. Praticamente le macchine dei nostri clienti andavano sopra al marciapiede che apparteneva al negozio, sia al marciapiede che la strada che c'era davanti a tutto il terreno del negozio. Fatto sta che questo vigile cosa ha fatto? Deve essere, c'era una sola persona che non poteva vedere, c'erano 4-5 macchine sopra e ha messo la multa solo a questo. Questo qui nel mentre è uscito fuori e gli ha detto va, buona buoni a tutti quanti, la multa, poi io sto fotografando le macchine perché ho la macchina fotografica in tasca e non ho problemi. E da voi che ha dovuto acciappo, se si è divisa di voi, la faccia così in mano, gli ha detto. Deve essere, questo era anche un mezzo delinquente, detto chiaramente. E mentre i vigili hanno fischiato e sono usciti tutti i clienti, hanno mollato tutti la spesa senza pagare, hanno mollato sui carri e se ne stavano tutti andando. E allora è uscito il mio principale, ha preso la cartina e gli ha fatto vedere i vigili che il posto non era pubblico ma privato, per cui loro non ci facevano nulla lì. Beh, intanto hanno continuato a mettere multe, allora lui ha fatto una cosa, si è fatto dare tutte le multe dai clienti, gli ha detto di andare tranquilli a fare la spesa e queste multe le ha portate al comando. Oh, gli erano tutte tolte, è andato con la cartina, con tutto quanto, tutta la mappa del negozio, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, certo, se è in zona privata è ovvio che non gli puoi fare la multa, glielo credo. Ma adesso, guarda, lì da Davide, a fianco a bottega, no, Davide ha il parcheggio autorizzato dalle 11 all'1, e la sera dalle 5 alle 7 di sera, no? Allora, arriva il vigile urbano, arriva uno di questi che era in coppia, però aveva spostato la macchina, l'altro aveva spostato la macchina e ha controllato perché c'erano delle macchine parcheggiate nel coso carico merci, no, di Davide, e ha controllato le macchine, ha controllato e ha guardato il cartello. Allora, il divieto di sosta lì in quel tratto lì è dalle 11 all'1, prima puoi parcheggiare, poi. Arriva, siccome non vi so che c'erano macchine parcheggiate, arriva questo vigile subito, perché ancora non erano le 11, erano le 11 meno 10, erano. Fortunatamente era uno che era lì da Davide, per dire, no, che stava comprando, è uscito e l'ha spostata la macchina. Tacchi, nel frattempo la macchina dei vigili urbani ha fatto un giro, ha fatto da via Pasquale, via Nocevi, di nuovo ha fatto un giro e si è parcheggiato proprio lì. E ancora non erano le 11, quello lì pure, quando stava ritornando indietro che aveva trovato un parcheggio in un altro posto, gli ha detto, ma scusa un attimino, lei a me mi ha fatto spostare, era qui, perché cioè erano le 11:10, cioè le 11 meno 10, mi ha fatto spostare, che ancora ci volevano 10 minuti per poter essere effettiva qui la sosta, la divieto di sosta, e adesso ci si mette, lei ci si mette qua, per quale motivo? Lei più bella faccia di me, gli ha detto al vigile urbano, ha fatto, non si preoccupi, lo facciamo noi, dice, il servizio di vigilanza, lo sappiamo noi quello che dobbiamo fare, ma dimmi tu se questo qui non è abuso di potere, boh, non lo so, abuso di potere sì. Sì, più di una volta. Una volta avevamo lì a Porto Torres un ristorante giù che ci prendeva la carne a pezzi grandi. A pezzi grandi proprio, poi facevano le fettine loro, se la lavoravano loro, e dovevo portare questa carne, c'era un vigile lì, non c'era parcheggio, e mi sono messo in seconda fila, ma non davo fastidio a nessuno, passavo tranquillamente le macchine da una parte e dall'altra. Fatto sta che gli faccio al vigile urbano, un minuto solo, sto uscendo subito, lui non mi ha detto niente, prendo, entro dentro con la carne, scarico la carne, mi firma la bolla, stavo per uscire, una signora ha detto guarda che c'è il vigile urbano che ti ha fatto la multa e te la sta attaccando al coso. Sono uscito e ho detto scusi, glielo ho anche detto, sto lavorando, non sto giocando, anche io sto lavorando, io faccio il mio di dovere, lui faccia il suo. Sì, hanno una faccia di cartone questa gente, guarda, è impressionante. No, non è possibile, ragazzi. In via Roma c'era la macchina parcheggiata, normalmente è uscito questo da quell'ufficio che c'è in via Roma, come si chiama? Il catastro mi sembra che sia, no? Su in alto, più su del museo, ma di fronte però, più su. E esce quest'uomo, ha suonato Bibi, perché c'era una macchina di fianco a lui e non potevo uscire. Vabbè, non potevo uscire. È arrivato quello della macchina che era fuori il parcheggio, l'ha spostata tranquillamente e ecco, non hai potuto uscire con mille manovre. Perché con mille manovre? Perché davanti a quello c'era anche la macchina dei vigili sempre parcheggiata in seconda fila. Sicché se tu mi metti due macchine davanti alla mia, tu lo sai benissimo, i parcheggi sono già abbastanza stretti, eccetera. Devo fare 50 manovre per uscire. E per uscire mi devo spostare sulla corsia di sinistra. Adesso fortunatamente va bene, a Roma è a senso unico e va bene. Però intanto per dirti no, come creano delle difficoltà, finché le creano loro i problemi vanno bene, se invece li creano le altre persone o lo creiamo noi, siamo passibili di contravvenzione. Non è giusto, capito già? E non avevo finito, Praticamente questo vigile io gli ho detto, quando mi ha risposto così, che tutti l'aiutino nei momenti di bisogno come sta facendo lei con me, ma non penso di avergli parlato male, gli ho solo fatto un augurio. Fatto sta che me ne sono andato, il giorno dopo stessa cosa, in tre giorni mi ha messo tre multe, lo stesso vigile, le ho portate in ufficio e il principale mi ha detto non è possibile, cazzo questo ce l'ha con noi, perché tu in 32 anni che lavori non avevi mai preso una multa già, che come è successo, così e così, glielo ho spiegato, ho preso le multe, è andato al comando eccetera eccetera, hanno chiamato questo vigile, ha detto che io ero prepotente, che praticamente gli avevo risposto male, e gli ho detto, quando me l'ha detto il mio principale, gli ho detto io non gli ho risposto male, gli ho detto solo che tutti ti aiutino nella vita come tu stai aiutando a me, nel senso che prima mi hai visto e non è che mi hai detto no, non ti parcheggiare perché se no ti metto la multa, hai fatto, è stato zitto, chi ti ha consentito, gli ho chiesto 5 secondi per scaricare, lì non c'è mai parcheggio, è inutile che tu mi dici cerca parcheggio, non ce n'è mai, è in piazza. Ti puoi immaginare, sì, ti sto dicendo, hanno una faccia da fettenti tante di queste persone, perché si credono chissà chi, ma meglio non sei nessuno, me non hai capito che tu sei anche un mio dipendente, a questa gente ci sarebbe di tu sei anche un mio dipendente, perché un centesimo di un centesimo del tuo stipendio è anche mio, non hai capito, no? Perché sei pagato da me, cittadino, ecco qual è il discorso, invece no, non ne frega niente, non hanno un minimo di comprensione questa gente, no. Agli amici sì, alle persone che le interessano, queste sì, quelle cose lì già le guardano, proprio i loro interessi, tutti però, tutti quanti fanno il proprio interesse e le proprie convenienze, capito? Però se sei uno che non è conosciuto da quella persona, da quella gente, stai tranquillo che è sempre da perdersi, non gli puoi dire nemmeno niente, non lo puoi prendere nemmeno a schiaffi, anche se potessi, magari perché la prestanza fisica tua è di gran lunga superiore a quella sua, però non lo puoi fare, perché offende la divisa e ti ammazzerebbero, ecco qua il discorso, se no certi meritano veramente di non solamente di essere presi a calci a schiaffi, ma addirittura a calci nel fondo del pantalone meriterebbero. Sì, immagino ci sono anche quelli bravi. Io l'altro giorno dovevo fare uno scarico, non c'era parcheggio, c'era un vigile, ho detto un attimino solo, posso. Non sappiamo noi quali sono le brave persone, non ti preoccupare, scarica tranquillamente. Sì, ci sono indovinanti, ci sono anche quelle persone che capiscono, ma perché non capita? Non lo so io, ma non è una domanda, sono di queste argomenti ne possiamo trattare milioni, non migliaia, milioni di questi argomenti, perché ne succedono tutti i momenti, non tutti i giorni solamente, tutti i momenti di un'intera giornata succedono di queste cose. Purtroppo è così, cosa lo replica, per non parlare poi del tempo che prendono. C'era un periodo, ragazzi, da che lì venivano da me un amico che io conoscevo, Luigi Romano, veniva con una macchina piena di vigili urbani e tutto bene, ma stiamo andando. Stiamo andando in campagna, dice, a piantare non so che cosa. Una macchina piena di vigili urbani, tutti quanti in servizio. Ma quando mai, Gaspita? Tu devi fare il servizio, non devi andare a farti le vacanze in campagna tua, ma è una cosa, guarda, assurda. Dice di andare a B, basta andare via Pirandello numero 1, dove c'è il circolo del comune, e vedi le patrie dei vicini urbani, entrando e uscendo, andando a bere. E tutti i posti così, ci sono sempre gli sciacquini, c'è poco da fare. Io c'ho un collega, guarda, che vuole prendersi attaccata al muro. Vuole prendersi attaccata al muro, tutto il giorno, tutta la sera cincischiando, girando a vuoto, chiacchierando, facendo, ed è pagato come me, capito? Lo fa tutta Roma Zanarasina e non viene rimproverato. Ieri un negozio alle 7:30, allora di andarmene mi ha telefonato e mi ha toccato senza vino, ho detto mi lo dico a Ciancavino, gliela preparo e la faccio portare, glielo ho detto, ma ha detto no, io non ne porto, dice domani mattina gliela porterà qualche d'un altro. Sì, ma è così. Loro vanno nel bar e vanno nel bar e a bere al baffo anche, non ti credere che sono tanto svezzi pagando loro. Lì sempre qualcuno trovano e si fanno pagare da bene oltretutto, perché sono anche sfruttatori, sono sempre quello. E quante volte la Bacari dai? Oh, anche la gente è deficiente, perché subito si arruffianano con queste persone, si arruffianano, per me che quello non te regala niente, mi non hai capito che quello lì non vuole bene nemmeno la madre, non vuole bene, e nei propri figli, e tu lì non gli offri da bene, ma non è possibile, già lo so, sì, non solamente tra queste persone, no, sempre quando venivano una greffa di persone che lavoravano alla SIP, per dire, no, ma due pattuglie, con due macchine addirittura, anche dell'Enel, venivano da me in bottega, la sera, all'Enel ad esempio, loro alle 5 devono essere già tutti presenti perché chiudono, devono consegnare la macchina. Loro alle 5 meno un quarto partivano dalla bottega e andavano a consegnare la macchina. E lì abbiamo aggiustato, dice, il contattore qua, eccetera. E magari dopo lo vedono dalle 3 in bottega, alle volte che aspetta, quando arrivavo io in bottega c'erano già loro parcheggiati fuori aspettando. E scottavano anche, questo è l'ora di andare a lavorare, perché tu sei travagliente, le dicevo io, perché tu stai lavorando adesso, no? Tu stai guadagnando al mappo, stai guadagnando. Per dirti, no, tutti questi posti di lavoro così sono tutte persone che non hanno voglia di fare niente, nulla, nessuno. Capita, ma non è possibile che uno alle 5 meno un quarto tu vai a consegnare la macchina, però dalle 3 alle 5 non hai fatto niente, non hai fatto, capito già? Questi erano quelli dell'Enel, quelli della SIP anche, allora era SIP, oggi è Telecom, prima si chiamava SIP, capito già? Lo so che è così. Io ne vedevo uno che lavorava a lei e lui non si accorgeva, perché io mi affacciavo e vedevo tutta la mossa, andava con la macchina, metteva il bidone, si scaricava gasolio, che cosa era, nel bidone, poi lo chiudeva, aveva un magazzino, se lo metteva dentro e ripartiva, capito? Si faceva sempre il piano nella macchina sua. Sì, ma non si sa, quello è quasi nella normalità, perché lo sappiamo benissimo che fanno con questi gruppi, perché rubano anche, certo, e che problemi ci sono. Questa è un po' come la storia di quelle che lavorano di fronte a bottega, abita un tipo, abita, no, non proprio di fronte, abita questo tipo, veniva in bottega, siccome gli avevo fatto un lavoretto, no? Quando abitava nell'altra casa, però non dove, dice, aspetta, dice, la sera, lavoravo da Sequest, la sera, quando arrivo a casa, apro il portabagagli e mi ritrovo sempre o un bottiglione di olio, o una forma di formaggio, o un sacco di cemento. Fatto, come? Nel portabagagli della macchina? Io non metto questa cosa nel portabagagli, lei lo mette, no, non mettevo niente io, qualcuno mi metteva sempre questa roba, dice, nel portabagagli, io la sera quando aprivo c'era sempre qualcosa, mi metto se c'è qualcuno che prende, ruba per lui, non mi sembra, era lui sicuramente che rubava, perché non poteva essere diversamente, non ti sembra? Allora io te la racconto una. Mi sono accorto che nella macchina di Liliana, girando, c'era praticamente un rumore e ho pensato che fosse il braccetto della macchina, visto che era in garanzia gliel'abbiamo portata alla Peugeot. Beh, fatto sta, cosa è successo? Vado ad aprire il cofano per caricare roba e dentro il cofano cosa ci trovo? Ci trovo una di quei caricabatterie professionali che pesavano un trono giù, tutto in ferro, di quelli pesanti, se avevo voluto me l'avrei tenuto. Cosa ho fatto? Io molto ingenuamente sono andato con Liliana alla Peugeot e abbiamo detto, guardi, per sbaglio probabilmente hanno messo, e tipo ho fatto, ma la sua macchina non aveva bisogno di caricabatterie perché era un altro problema, qual era? Ha detto quello del braccetto. Dice, cosa serviva il caricabatterie? Questo qui è stato nascosto apposta per portarselo via. E già comunque già capiamo più o meno chi è. Adesso vediamo, dice, controlliamo, comunque la ringraziamo per il momento, tanto è vero che poi ci hanno piazzato lo stereo gratuitamente, non ci hanno fatto pagare manco una lira. Ehi, ma lo sappiamo, i ladri ci sono dappertutto, ci sono sempre stati, lo sappiamo e li conosciamo anche tanti, ma per dirti, no, ad esempio non è che si cibì, che adesso non stiamo lavorando più, è che tu hai conosciuto tantissimo, molto, è come l'ho conosciuto io, eccetera. Era un ladro di prima categoria, perché ha rubato in tutti i negozi che ha lavorato, ha capito Gianni? E io lo conosco benissimo, e lo so, perché ultimamente, cioè l'ultimo lavoro che ha fatto in uno di questi negozi, addirittura prima rubava materiale nel negozio di un negozio di Predanieta, ecco, possiamo fare questo senza fare molti nomi. Poi quando ha perso il negozio il lavoro lì in quel negozio di Predanieta è andato in un altro negozio, in un altro genere di materiale, e anche lì ha rubato. Oggi è dipendente comunale, buon qua sei tutto. Il vizietto non passa mai, io ne conosco persone, brave persone, però hanno questo vizio, non capisco come, io mi vergognerei se mi trovassero solo una volta, a parte mi vergogno solo a pensarlo, una cosa del genere, era fuga. Poi dovessero pizzicarmi, come abbiamo trovato molte persone noi, negozio rubando. Abbiamo trovato una donna, una vergogna, io ho pensato che insegnamento gli dà questa creatura, che già da piccola una neonata nel passeggino alzava, prendeva la neonata in braccio e poi alzava le coperte e sotto ci nascondeva la roba. L'abbiamo vista, hanno chiamato i carabinieri, hanno lasciato la carrozzina nel negozio, hanno fatto perdere la bambina e l'hanno arrestata. Certo, ma è così. Io posso capire, arriva un disgraziato lì, una persona malata, demente, e ruba il negozio, ma che sia il dipendente a rubare da quel negozio dove ti saranno da mangiare e da vivere, no, non è possibile, non è accettabile nella maniera più assoluta, capito Gianni? Per dirti, no, e questo amico che ti stavo dicendo, XCB, che un giorno quando le persone ti dicono chi è, perché tanto queste persone meritano di essere sputtanate, in frequenza chiaramente non te lo posso dire perché non è corretto, però oggi lavora in comune, certo non è un impiegato, basta, ha detto tutto, certo non è che ha una grande mansione, però in comune ci sono tante mansioni e una di queste ce l'ha lui, capito? Ci credo, perché poi queste persone guarda che la sono onesto, e poi trovano lavoro meglio di chi è onesto, capito? Che gente che non ha mai lavorato, che ha sempre furato, vive gli espedienti di cose, e poi quando trova il lavoro meglio degli altri che sono onesti. Infatti, tu basta pensare che quando rubava in questo negozio di Pedaleta ero riuscito a comprarsi una campagna. Con quella campagna poi che cosa ha fatto? Si è venduto quella, si è venduto per comprare, per farsi la casa in un'altra campagna che si aveva comprato, per dire, però si è fatto la casa col materiale rubato, così, boh, basta, abbiamo detto tutto. Prima ha rubato in una maniera, si è comprato questo pezzo di terreno, che poi l'ha dato, non so se l'ha dato in Piemonte, per un'altra campagna, e in quell'altra campagna poi si è costruito la casa, tutto lì. Cavagava, vabbè, già ho capito la cammina. Andava, Giulio, io ti devo lasciare perché devo andare a fare il sugo, perché oggi Giuliana mi ha chiesto la cortesia perché è andata dalla cugina che aveva necessità di un piacere, quindi mi ha chiesto la cortesia di fare il sugo, vai, vado, perché sennò poi non ce la faccio a farlo e rimaniamo senza mangiare. Ok, vai, Giacio, ma che è, io cazzo, te lo credo. La famiglia è sempre molto, ma molto più importante del baracchino, ci mancherebbe altro. Ciao già, grazie, ci sentiamo eventualmente stasera, non lo so, staremo a vedere qual è il programma della serata. Ciao già, ci sentiamo, ciao, saluti in casa. Ciao Gio, altrettanto, dai. Ti ringrazio per il QSO, vai, programmi miei, non sono altri, posso stare a casa tranquillamente a riposarmi, che stiamo trasferendo un negozio, chiudendo un negozio, quindi sto facendo avanti e indietro con la merce, sono molto stanco in questo periodo. Vabbè, ci sentiamo Giulio, dai, stasera magari, ciao. Ok, ciao.